servo, tanto orgoglio che al mio onore i campi d'oro di spavento tremerà, di spavento tremerà, tremerà. Togli pur l'ingiusta roba, di colore la mia chiora, manco servo, manco orgoglio, che al mio nome il campiolo di spavento tremerà. Di spavento tremerà.